quando si rimane da soli. Si sentono rumori lontani, vibrano la mente e la pelle. Ti accompagneranno per sempre. Io non ho bisogno di niente e non ho bisogno di te. Se ti scrivo ancora è solo per parlarti di me, della neve che c'è fuori e che non ho paura. Se ti scrivo ancora è solo per sapere se c'è qualcos'altro di me che non sai, che non hai apprezzato mai, che non hai apprezzato. Che ci coglie indifesi, spesso poi ci rende migliori. Vago tra il mio cuore e le stelle, io ti porto dentro da sempre, ma non ho bisogno di te. Ti scrivo ancora, è solo per parlarti di me, della neve che c'è fuori e che non ho più paura. Se ti scrivo ancora, è solo per sapere se c'è qualcos'altro di me che non sai, che non hai apprezzato mai. Cerco ancora, è per liberarmi di te, dell'amore che c'è dentro me e che non so spiegare. Che non so spiegare.